Bentornati e bentornate qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Oggi parleremo con una persona che è una bioeticista, si chiama Silvia Camporesi e ha scritto un libro che si chiama Partire Svantaggiati per Fandango Libri, per la collana Icaro. Silvia Camporesi è una bioeticista con un curriculum internazionale in biotecnologie mediche, filosofia della medicina e scienze sociali. Per più di 10 anni ha lavorato al King's College a Londra, dove ha ricoperto la cattedra di professore associato in bioetica e società e diretto il master di secondo livello omonimo. Attualmente è Senior Research Fellow in bioetica e salute pubblica presso il Dipartimento delle Scienze Politiche dell'Università di Vienna e Postdoctoral Fellow al Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna. Insomma, è tantissime cose, ma è anche scrittrice, podcaster anche, e ha un seguitissimo, importantissimo e interessantissimo profilo Instagram sul quale ci aggiorna di tutte quelle cose di cui in parte ci parlerà anche oggi, ma soprattutto è qui con noi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Benvenuta Silvia. Grazie mille. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, partiamo subito dal titolo del tuo libro, Partire Svantaggiati. Perché partire svantaggiati? Lo dico per chi non ha il libro tra le mani, ma che avrà voglia di procurarselo. Svantaggiati è scritto con la S tra parentesi, quindi è sia svantaggiati che vantaggiati. Esattamente, partire svantaggiati con la S tra parentesi è anche il punto interrogativo, perché il libro gira attorno al concetto chiave di vantaggio-svantaggio nello sport e va a investigare, a indagare sulla base di quali criteri alcuni vantaggi vengono considerati equi o giusti, quello che in inglese si dice fair, e alcuni vantaggi vengono invece considerati iniqui o ingiusti dalle federazioni. E quindi il libro va a vedere vari casi studio reali e a porre domande aperte con cui discuto con il lettore. Allora, il libro racconta tantissime cose, in realtà è da tanti spunti di discussione, di conversazione. Uno, partirei dal fatto che vengono confutati due dati, cioè che la specie umana è binaria e che esiste una parità di condizioni iniziali. Perché non è così? Esattamente, la specie umana, come le altre specie di mammifero, dal punto di vista biologico non è binaria, siamo poi noi che socialmente andiamo a creare le categorie maschile o femminile, ma esistono individui con la percentuale che varia tra lo 0,2 e lo 0,5%, quindi una percentuale che non è comunque irrisoria, che nascono con caratteristiche genotipiche a livello del loro corredo cromosomico, ma anche fenotipiche, che sono intermedie tra il maschile e il femminile, e in questo noi non ci differenziamo dagli altri mammiferi, ma non dovrebbe essere una sorpresa, anche se ancora purtroppo a volte ci reputiamo in una scala gerarchica diversa dalle altre specie. E la parità di condizioni iniziali è qualcosa che le federazioni sportive usano, in inglese si parla di level playing field, per andare a affermare che è necessario abbassare farmacologicamente i livelli di alcuni vantaggi naturali, ma non di altri. Per esempio, qui mi riferisco ai livelli naturalmente elevati di testosterone endogeno prodotti naturalmente dal corpo femminile, che vengono reputati dalla Federazione Internazionale d'Atletica Leggera iniqui rispetto alle altre atlete donne. Questo, a differenza di altri vantaggi naturali, come livelli naturalmente elevati di ematocrito causati da condizioni genetiche che sono un po' al confine tra la fisiologia e la patologia, che portano anche questi a un vantaggio di performance, ma vengono considerati come parte del gioco. E quindi appunto il libro, Partire Svantaggiati con la S fra parentesi e il punto interrogativo, si va a interrogare su quali criteri vengono usati dalle federazioni per andare a affermare che alcuni vantaggi sono equi e quindi devono essere lasciati stare, mentre altri devono essere regolati, bisogna andare a intervenire. Stiamo parlando con Silvia Camporesi, lo ricordiamo, che ha scritto Partire svantaggiati, all'interno del quale fai l'esempio appunto di Caster Semenya, che comincia a gareggiare facendo atletica leggera con delle gare anche internazionali, va alle Olimpiadi, in un momento in cui non ci sono regole in vigore che vietassero la partecipazione alle competizioni sportive di donne con alti livelli di testosterone. Quello che ti chiedo è: a che punto siamo con le regole sull'iperandrogenismo e le donne, in questo caso, con differenza di differenziazione del sesso, i cosiddetti DSDS? Un'ottima domanda, un'ottima domanda, perché in effetti non avrei mai creduto di lavorare su questi argomenti per 15 anni di fila, perché il caso Semenya esplode nel 2009 a Berlino, nel 2024 ci troviamo ancora a discuterlo e non è finito, perché dal punto di vista delle regole sono stato l'appello al Tribunale d'Arbitrage Sportif, che è la Corte Suprema dello Sport con sede a Losanna, due appelli, uno nel 2015 portato avanti dall'atleta indiana Dyuti Chand e uno nel 2019 portato avanti da Caster Semenya della Federazione Sudafricana dell'Atletica Leggera. Questo secondo appello ha confermato che le regole rimangono in vigore, anche se una decisione che non è stata presa all'unanimità, e poi nel 20 c'è stato l'appello di Semenya contro la conferma del Tribunale svizzero alla Corte europea dei diritti umani, dei diritti dell'uomo, che ha sede a Strasburgo, e questo è un dato recente di anno scorso, di luglio, in cui la Corte europea per i diritti umani si è pronunciata sul fatto che Caster Semenya è stata discriminata, che tre dei suoi diritti umani sono stati violati da queste regole che le richiedono di prendere farmaci per abbassare i suoi livelli naturali endogeni di testosterone. Però qui non siamo ancora arrivati alla fine della storia, perché poi c'è stato un appello da parte del Tribunale federale svizzero. Qui entriamo un po' nei dettagli che vado a esplorare meglio nel libro, ma perché praticamente un atleta singolo non può portare direttamente una federazione atletica di fronte alla Corte europea dei diritti umani. Questo è un problema dal punto di vista del diritto e dell'etica sportiva, che sottolineo, e quindi c'è una specie di appello indiretto. In ogni caso, questo appello è stato poi accettato e si attende per il 15 maggio del 2024 la sentenza della Grand Chamber, della Camera Principale della Corte Europea dei Diritti Umani, in merito al caso Caster Semenya. Nel frattempo, le regole rimangono in vigore. A che punto siamo con le tecnologie di modificazione genetica CRISPR? Che cosa sono? Magari anche perché magari io non le so spiegare con cognizione di causa e di scienza come invece potresti fare tu. E quali questioni aprono queste tecnologie di modificazione genetica sia a livello etico ma soprattutto a livello sportivo? Sì, certo, le tecnologie CRISPR sono tecnologie le più avanzate, diciamo, di modificazione genetica, che vanno in modo mirato a modificare una sequenza di DNA con lo scopo terapeutico. Si parla appunto di tecnologie di terapia genica, però la stessa è per queste tecnologie che sono state scoperte ormai 10 anni fa, nel 2015 hanno vinto il premio Nobel, nel 20 Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, scienziata americana, la scienziata francese, che per prime hanno scoperto questa tecnologia. E in un altro contesto la stessa tecnologia può essere però applicata a scopo potenziante o di enhancement. E quindi io nel libro Partire svantaggiati vado a esaminare come queste tecnologie, in scenari di futuri prossimi della tecnologia, in linea quindi con la collana Icaro, che parla di futuri prossimi della tecnologia e della scienza e della nostra specie, possono essere usate per andare a potenziare, a mimare variazioni genetiche che esistono già in natura, per esempio mutazioni a livello del gene della miostatina che vanno a aumentare la massa muscolare, mutazioni a livello del gene dell'eritropoietina che vanno a aumentare la capacità dei nostri globuli rossi di trasportare l'ossigeno, oppure mutazioni a livello della nocicezione della nostra risposta al dolore. Tutto questo sono già cose che esistono in natura, ma la tecnologia CRISPR le può andare a mimare cercando di potenziare una capacità, quindi conferendo un vantaggio. E è una sfida, la prossima sfida al doping. Il libro si sofferma a parlare di doping, praticamente uno dei tre nuclei principali, perché queste tecnologie potrebbero essere applicate non solo a livello dell'adulto, ma anche a livello dell'embrione, ponendo quindi sfide importanti al concetto stesso di doping, in quanto possiamo pensare fra 10 o 15 anni di avere individui che siano stati geneticamente modificati a livello embrionale, che quindi questi individui chiaramente per definizione non avranno avuto intenzione di modificare se stessi, e quindi viene a meno l'intenzionalità al potenziamento o al doping. E quindi come ci poniamo di fronte a queste sfide? Questo è uno dei temi di partire svantaggiati. Hai fatto riferimento alla collana Icaro, che è condotta da Maurizio Balistrieri, diciamo tutta la collana di Fandango in questo caso parla di che cos'è un essere umano e che cosa sta diventando anche alla luce dei progressi tecnoscientifici. Ecco, a un certo punto nel libro scrivi che a tuo parere non è giusto che atleti normodotati vengano protetti con una strategia di contenimento, e a un certo punto dici: se la bioetica era la risposta, qual era la domanda? Ecco, potremmo forse così riassumerla usando le parole del filosofo britannico e pioniere della bioetica John Harris: nel futuro non ci saranno più uomini come li conosciamo ora. E quindi, ecco, e quindi la domanda è: e quindi, visto il futuro, come sarà l'atleta del 2050? Hai fatto prima riferimento a quello che sarà tra 10-15 anni, ma nel 2050 o 2100 l'atleta sarà un cyborg? Sì, in effetti qui in futuro non ci saranno più esseri umani come li conosciamo. È una citazione del noto bioeticista e filosofo John Harris, che ha fatto la storia della bioetica nel Regno Unito e nel mondo, che ho preso in prestito a un recente TEDx che ho fatto a Forlì il 3 febbraio, che ha iniziato proprio con questa frase. Quindi in futuro non ci saranno più esseri umani come li conosciamo, fatti interamente di materia biologica. Il futuro dell'essere umano è il corpo cyborg, la commistione fra biologico e sintetico, tra naturale e artificiale. È un futuro che spaventa alcuni, ma è un futuro, secondo la sottoscritta, che è l'unico aperto alla nostra specie per continuare ad esistere sul lungo termine su questo pianeta e in questa galassia, o parlando appunto anche di nuove frontiere della bioetica, in cui si parla di colonizzazione da parte della nostra specie dello spazio. Il futuro è la commistione fra naturale e artificiale, fra biologico e sintetico, è il corpo cyborg, è un corpo di cui non dobbiamo avere paura, ma che dobbiamo abbracciare, e questo anche nel contesto dello sport, mentre purtroppo la Federazione di Atletica ha fatto passi indietro invece che fare passi in avanti. Nel 2012 alle Olimpiadi di Londra vedemmo Pistorius competere con atleti cosiddetti normodotati, anche se è una parola che non mi piace, che nel libro cerco di non usare usando perifrasi, ma lo vedemmo competere alle Olimpiadi, dove arrivò alla semifinale dei 400 e nella staffetta 4x4 fece il primo giro di pista e poi passò il testimone ai suoi compagni di squadra che hanno arti inferiori intatti. Dopo il 2012 non abbiamo più visto altri atleti con tecnologia assistiva competere alle Olimpiadi. Come mai? Perché? Questo non perché non ci siano più stati atleti che hanno corso abbastanza veloce o saltato abbastanza in lungo da poter essere competitivi con gli atleti con arti inferiori intatti. Abbiamo avuto esempi, abbiamo Marcus Rem, campione paralimpico di salto in lungo in carica da più di 10 anni, che salta misure nel lungo migliori del campione olimpico in carica. Abbiamo Blake Leeper, atleta afroamericano che corre 400 metri con tempi comparabili a quelli degli atleti con arti inferiori intatti, unico tra tutti gli altri atleti che usano la stessa tecnologia. Questi due atleti non è stato permesso di competere alle Olimpiadi di Rio e alle Olimpiadi di Tokyo, perché la Federazione di Atletica ha deciso che, a differenza di quanto aveva permesso nel 2012 a Pistorius, da allora ha deciso di cambiare le carte in tavola, ha inserito una nuova regola che è stata appunto poi soprannominata regola di Rem, dal nome di Marcus Rem, l'atleta tedesco, che afferma che tocca all'atleta con disabilità, tocca all'atleta con tecnologia assistiva riuscire a dimostrare che le sue protesi non gli conferiscono un vantaggio sugli atleti con arti inferiori intatti. Questo in pratica è pressoché impossibile, quando un atleta comincia a fare misure o tempi comparabili, ed è questo a cui mi riferivo nel libro quando parlo di strategie di contenimento, di strategie che cercano di proteggere la categoria dell'atleta fatto interamente di materia biologica, dell'atleta, fra virgolette, normodotato, e che percepiscono l'atleta con tecnologia assistiva come una minaccia appena comincia a correre abbastanza veloce o a saltare abbastanza in lungo. Questo, secondo me, è anacronistico, è discriminatorio, è fondamentalmente ingiusto. E io passerei altre non so quante ore a parlare con Silvia, e in parte ho avuto il privilegio e la fortuna di poterlo fare in altre occasioni. Per ora mi limito a consigliare, ma questo lo faccio sinceramente, la lettura del suo libro, che è A partire svantaggiati, uscito per Fandango Libri, Collana Icaro.